Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa Europea, benvenuti da Giulia Crivelli. Qui su Radio 24 una volta alla settimana ci occupiamo dei temi europei, come li hanno trattati i giornali stranieri e non soltanto. E quest'oggi partiamo, abbiamo parlato tanto di Ucraina nelle scorse settimane, ma come sempre dico, poi si rischia di essere un po' superati dalla cronaca. Allora partiamo questa volta da Wall Street Journal e New York Times, che si sono molto incuriositi, come in generale sempre sono gli americani davanti al calcio europeo, perché sapete che il soccer negli Stati Uniti non sfonda, per loro il calcio è il football. E quindi questa volta però c'è stata una grande attenzione alla presentazione del nuovo stadio della Roma, che è stato tra l'altro, sapete che nella Roma ci sono anche dei soci americani, quindi forse hanno anche un interesse particolare, però è impressionante l'investimento. Sapete che è previsto l'investimento di 1 miliardo di euro in quello che persino Francesco Totti ha già ridefinito una specie di nuovo Colosseo. Ecco, il proprio New York Times parla appunto di questi grandi investimenti che ci sono negli stadi in tutta Europa. In Italia abbiamo avuto naturalmente lo Juventus Stadium, poi sapete che per il dopo Expo si parla di un altro stadio nuovo per Inter e Milan, quindi sono interessanti questo nuovo modello, perché forse è un pochino più simile tra l'altro proprio al modello dei grandi stadi americani dedicati al football. E infatti il New York Times dice: la proprietà americana porterà un rinascimento calcistico a Roma. E vabbè, ognuno ci vuole mettere la sua firma. Il presidente, che si chiama, guardate, ha un nome oriundo italiano, si chiama James Pallotta, ha detto, è già proiettato nel futuro, ha detto: con lo stadio credo che potremmo diventare uno dei 3 migliori club del mondo, questo è l'obiettivo, non ho paura di dirlo. Il Wall Street Journal invece ha spiegato che il nuovo stadio della Roma mostra la strada per gli investitori stranieri e potrebbe inaugurare una nuova era per il calcio italiano. Insomma, sappiamo che ci sono già stati tanti investitori, poi con quali risultati, insomma, vedremo, perché l'esperienza di Toir con l'Inter per esempio per ora non è molto positiva, lo dico da interista, come forse sanno gli ascoltatori di Radio 24. Passiamo invece a Financial Times, che parla di, dicevamo, l'Ucraina, ecco, per cercare di superare quella che è la cronaca, le intercettazioni, le dichiarazioni di Yulia Tymoshenko e i vari sondaggi su Putin, il cui picco di popolarità, come ci spiega la nostra Antonella Scott, diventa sempre più alto, perché per lui la mossa dell'annessione della Crimea, che apparteneva prima del referendum all'Ucraina, è stato un grandissimo botto di popolarità, appunto. Ecco, ma al di là di questi fatti di cronaca, vediamo la parte economica, che sappiamo aver giocato un ruolo molto importante nella questione. Financial Times spiega che il Fondo Monetario Internazionale potrebbe annunciare un piano d'aiuti da 15 miliardi di dollari, a favore dell'Ucraina. In questo modo la prima tranche potrebbe addirittura arrivare entro la fine di aprile, e ci sarebbe uno sforzo del Fondo Monetario Internazionale per accelerare questo agreement. Forse ricorderete che proprio settimana scorsa avevamo citato un'intervista in cui il premier ad interim Arseniy Yatsenyuk dell'Ucraina aveva chiesto apertamente alle istituzioni, all'Europa, agli Stati Uniti, una exit strategy per il suo paese. Ecco, forse questa potrebbe essere la risposta. Questo pacchetto, che appunto oscillerebbe tra 10 e 15 miliardi di dollari, e sarebbe un po' più contenuto di quello che avrebbe chiesto il ministro ucraino delle finanze, però sarebbe un vero e proprio salvagente. E Shlapak, che è appunto questo ministro un po' ad interim del governo ucraino, che sta cercando di ristrutturarsi dopo tutto quello che è successo, in realtà ha detto, spaventando naturalmente molti, che il PIL dell'Ucraina potrebbe contrarsi di almeno il 3% quest'anno. Ma veniamo a un altro tema che ci lega un po' a noi. Avrete seguito sicuramente la polemica sugli stipendi, sui mega stipendi dei manager pubblici, che sembrano a volte staccati dalle loro performance, perché tutti gli stipendi dei manager delle grandi aziende sono legati alle performance, quelle delle aziende pubbliche un po' meno, perché le aziende pubbliche per definizione in molti casi non stanno sul mercato, quindi non rispondono al mercato. Naturalmente parliamo in particolare del caso di Mauro Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, che avrebbe addirittura detto: se mi tagliate lo stipendio dai circa 800.000 euro ai 250.000 o quanti sarebbe il tetto, io potrei anche andarmene. e naturalmente dichiarazioni di tutti quanti. Ecco, la Süddeutsche Zeitung riporta, non tanto per parlare di Moretti, ma per parlare dei manager in generale delle ferrovie, che il presidente delle ferrovie tedesche, che Moretti aveva citato come uno che guadagna 3-4 volte più di lui, si chiama Rüdiger Grube, nel 2013 ha guadagnato circa 1 milione di euro rispetto al 2012. E perché? Perché questa riduzione di stipendio è strettamente legata ai risultati che sono stati sotto le aspettative. Grube, che ricorda la Süddeutsche Zeitung, è stato chiamato in causa appunto dal nostro Mauro Moretti per le polemiche sul compenso dei manager, ha comunque intascato una cifra che non è male, 1,6 milioni, però è meno dei 2,6 dell'anno precedente. Si tratta, come ripeto, per moltissimi manager, di uno stipendio che è diviso tra una parte fissa, nel caso di Grube è di 900.000 euro, più tutti i compensi straordinari. Passiamo a un altro quotidiano tedesco, il Tagesspiegel. Qui l'aggancio è con un altro fatto accaduto nei giorni scorsi, cioè le elezioni nella settimana scorsa, per la verità, ma poi con tutte le analisi che ci sono state, le elezioni in Francia, le elezioni amministrative, che come sempre sono un importante test politico anche, sapete, la grande vincitrice è la destra estrema di Marine Le Pen. E allora la Tagesspiegel riporta questo intervento dell'eurodeputato Andreas Mölzer, che è capolista alle europee del partito di estrema destra austriaca, quello lo ricorderete, del Jörg Haider, il leader che poi è morto in un incidente automobilistico più di un anno fa. Ecco, questo signore ha paragonato l'Unione Europea al regime nazista e ha detto che l'Europa in futuro potrebbe diventare, attenzione, io cito, aprendo le virgolette quasi spaventandomi di quello che sto leggendo, un agglomerato di negri, virgola, il caos assoluto, chiuse le virgolette. Questo è uno di quei discorsi, probabilmente, fatto in un posto piccolo, dove magari i deputati, sappiamo benissimo che succede così anche con alcuni deputati della nostra Lega, magari si lasciano andare a frasi un po' esagerate, però il giornale giustamente ha mandato lì un cronista e poi ha riportato quello che questo signore ha detto, e ve ne riporto altre frasi. Questo discorso, che è stato tenuto in febbraio, quindi appunto forse in qualche modo si era cercato di non renderlo troppo pubblico per la gravità per la pesantezza delle parole usate, comunque Mölzer ha anche detto: è davvero così. Quindi l'ha detto addirittura prima delle elezioni amministrative. È davvero le amministrative in Francia che così tanta paura hanno messo per questa ascesa dei partiti estremisti? È davvero così. Tutti, dai portoghesi agli estoni, dagli svedesi ai siciliani, ci prendono in giro a noi, ai tedeschi e agli austriaci. Siamo gli unici che cominciano a lavorare alle 9, non alle 11. Vorrei parlare personalmente col signor Mölzer per rassicurarlo, perché non è così. La scelta delle parole non è stata delle migliori, ha detto poi Mölzer, però, ma guarda, anche lui si è giustificato dicendo che il contesto era satirico, ironico. E va bene. La Berliner Zeitung, invece, per restare un po' in Germania, per restare a temi molto più seri, paragona un po' la situazione della disoccupazione in Europa. Sicuramente la Germania è messa meglio di moltissimi altri paesi, dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, però anche in Germania ci sono molte persone alle quali un lavoro non basta più, perché comunque le retribuzioni sono ferme. Sapete che uno dei tanti difetti che avrebbe la gestione economica centrale dell'Europa è quella di voler tenere. Di vedere l'inflazione come uno spauracchio pazzesco. Ecco, questo vuol dire che gli stipendi non sono saliti, e quindi, scrive la Berliner Zeitung, in Germania è salito invece a livello record il numero di persone che ha un secondo lavoro oltre all'occupazione principale. Sono i dati dell'Istituto per la ricerca sull'occupazione e il mercato del lavoro, secondo cui nel 2013 per la prima volta si è superato il numero di 3 milioni di persone con doppia occupazione, ed è un numero che appunto spaventa, perché vuol dire che o le famiglie dove lavora una sola persona, o magari anche quelle dove lavorano due persone, non riescono più ad andare avanti con un unico stipendio, con un unico lavoro. Tra l'altro, questa cosa è più diffusa tra le donne, l'11%, che tra gli uomini. Vi segnalo, visto che un altro grande tema è quello dei referendum, c'è stato quello della Crimea, che è passato liscio perché lo zar ha voluto così, ma è in arrivo ancora quello della Scozia, e il Paese e l'Avanguardia si occupano della sentenza della Corte Costituzionale spagnola del 25 marzo, che ha dichiarato incostituzionale la dichiarazione di sovranità del Parlamento catalano. Secondo El País e l'Avanguardia, che sono appunto due tra i principali quotidiani spagnoli, l'altro è El Mundo, la sentenza la sentenza ha semplicemente chiarito che il diritto a decidere delle autonomie locali non implica una piena sovranità, ma ha lasciato aperto uno spiraglio per possibili riforme costituzionali. Certo, questo dei referendum, di questa pressione ad avere più autonomia di piccole regioni è in un certo senso pericoloso. Se avrete seguito in Italia, anche qui abbiamo un piccolo parallelo, che è quello del Veneto, che sapete ha fatto questo referendum anche con modalità ancora un po' tutte da precisare, dove la maggior parte dei veneti si sarebbe detta favorevole all'indipendenza del Veneto. Era purtroppo l'ultima segnalazione che riesco a farvi, c'erano tanti argomenti anche su Euronews o se volete su Internazionale, sul sito di Internazionale c'è il tema dell'energia, c'è naturalmente quello dell'Ucraina che qui a Radio 24 continueremo a seguire, ma per intanto vi auguro un buon sabato. Rassegna stampa Europa in collaborazione con Euronet Plus.